Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Insieme all'Associazione Difesa Consumatori oggi raccontiamo di una vicenda che è capitata certo ad una persona, ma può fare da esempio, speriamo buono, anche per altre persone che dovessero incappare in situazioni simili. Ben trovato al presidente Adico Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, voi come Adico avete diffidato un'azienda di Mestre, un centro massaggio, per una vicenda di buoni che è utilizzabile appunto da un cliente che in realtà poi sono stati persi. Prova a raccontarci questa vicenda. Praticamente, amico, l'accaduto che andiamo a raccontare è un fatto molto comune, dove persone che si trovano magari ad aver acquistato anticipatamente dei buoni o dei pacchetti, come è capitato anche in passato, si trovano poi nell'occasione di doverne usufruire che magari l'esercizio cambia gestione. In questo caso risale una coppia che nell'occasione di San Valentino si erano regalati dei buoni massaggio presso un centro Thai Spa di Mestre e a distanza di un po' di tempo dalla festa e hanno deciso di andarne a sottoporsi a questi trattamenti che comunque come massaggio costava anche 110 euro l'uno e si sono trovati che la gestione subentrata, anche mantenendo lo stesso nome, non ha riconosciuto il valore del buono in quanto dicono che faceva fede a una precedente gestione e pertanto non hanno esitato a rivolgersi all'Adico per raccontare l'accaduto e per mandare i nostri uffici legali anche di farsi. Dunque, la stessa azienda, pur essendo di fatto la stessa gestione, no? Avevi detto, ha rifiutato l'utilizzo, la fruizione di questi buoni, un valore insomma anche corposo, mi pare fossero poco sopra i 100 euro. Voi avete diffidato però questa ditta, giusto? Sì, l'abbiamo diffidata perché per noi ci sono tutti i presupposti per vedere un raggio, in quanto sostanzialmente ma il nome dell'azienda è rimasto lo stesso e non si possono certamente identificare come studente di una gestione e non il riconoscimento dei buoni che sono stati acquistati dalla stessa azienda. Certamente questa è una situazione, un episodio che fa riflettere, perché troppo spesso ci capitano consumatori che magari pagano una quota per essere soci, acquistano dei buoni, acquistano anticipatamente dei pacchetti, pensiamo anche al famoso sindaco che ha coinvolto migliaia di veneti, la famosa compagnia di viaggio di Ventaglio, il Venta Club, dove uno in maniera socio pagava una quota mensile e aveva diritto a un viaggio all'anno da poter scegliere gratuitamente. Insomma, tutte espedienti che certamente da un lato agevolano il consumatore ad accedere ad alcuni servizi, pacchetti e quant'altro, ma poi contestualmente lo espone a sorprese, come è capitato questo dei signori, in cui per un motivo o per un altro poi sono i primi a rimanere con pezzi di carta in mano senza nessun valore. Su questo pezzo di carta, su questo buono, c'era magari scritta, non so, una data di scadenza, buono da usufruire entro il tal giorno, oppure non c'erano limitazioni? Il buono non lascia dubbi riguardo il modo e i tempi per poterne beneficiare. Certamente, come ha detto, non essendoci stato un subendo, non avendo cambiato di nome, secondo noi questa vicenda è una vicenda poco chiara che merita veramente essere approfondita. Ma nello stesso tempo vogliamo invitare gli ascoltatori a valutare sempre quando si adottano queste forme di acquisto, perché certamente sempre troppo frequentemente capitano questo tipo di fregature. Certamente anche poi andare a fare un'istanza di passivo qualora di fallimento, qualora si individuano anche tante persone coinvolte, alla fine scopriamo che non è mai conveniente, perché anche qua sono state le nuove normative, i nuovi concordati, le nuove informazioni eccetera, alla fine vediamo che il cliente è l'ultimo ad essere tutelato e, come è capitato in precedenti fallimenti, poi se no hanno recuperato neanche il 5% della somma spettante e certamente nulla che possa andare a giustificare un qualsiasi tipo di attività, qualcosa che tende paradossalmente a scoraggiare il principio anche di voler riconoscere la propria ragione. Questo succede nonostante magari col centro, nello specifico, anche in altri casi si abbia un rapporto di conoscenza. Altro caso è magari se si hanno dei buoni di negozio, di attività commerciali che non si conoscono. Qui magari mi pare di capire che ci fosse almeno un rapporto preesistente. Certamente un rapporto preesistente e anche noto, perché insomma questo era un esercizio che svolgeva un'attività in centro città, ma certamente neanche lui non soggetto magari alla tentazione di fare un po' il furbetto, soprattutto in questo momento di crisi. Però bisogna dire che quando capitano queste cose un vero consiglio non c'è se non quello di essere veramente cauti e soprattutto nel momento che si decide a dettare queste forme di pagamento cercare di utilizzare gli acquisti il più velocemente possibile, perché nella previsione di poterlo fare quando, con il senno del ma e del però, si rischia poi a rimanere fregati. Quindi dove è possibile invitiamo ovviamente a non aspettare troppo e dubbio anche qua, come vedi, la fiducia del cliente non è stata sufficiente a mettere ai pari i nostri soci da questi raggiri, però è anche vero che non è giusto per chi svolge un'attività e la fa bene e questi insomma vengono penalizzati per colpa di questi truffatini. Vedremo come andrà a finire questa vicenda con la diffida che avete presentato. Intanto ci diamo appuntamento alla settimana prossima per altri due argomenti. Grazie all'Adico, il presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te amico e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.